medievali, le giostre di colori inalterati, l'incenso delle chiese orientali, la stirpe di Calì allunga il passo, soldati di tribù, anziché necche, riposo tra gli ulivi del Getsemani, pensando ad altre vite inalterate, la luce che filtrava da triangoli scaleni, icone greco-romane, cornice dell'antico rito assiduo. Sacri tempi.